Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, che sono in redazione a confezionare con me anche questa puntata, l'ultima di questa settimana. Valeria Bernardi darà musica e ritmo ai temi di quest'oggi. Temi che potrete commentare sui social, Twitter, Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e poi ancora via SMS per anche domande, appunto, o commenti al 349-238-6666. Tanti i temi di oggi, l'attualità internazionale richiama la nostra attenzione, lo avete sentito anche dal GR, io vorrei partire dalla Turchia. We can say that after trying everything, the possibility of going to the polls again is very high, that may be even the only option. E come avete sentito, ieri il primo ministro Davutoglu ha riferito di aver provato in tutti i modi a creare una coalizione, ma che con i socialdemocratici non ha funzionato. Da tutt'altra risma la tesi, appunto, dei socialdemocratici. In realtà si è detto il fallimento dei colloqui è stato dovuto a una non proposta. Quello che era stato ricevuto da parte di Davutoglu era fondamentalmente una proposta transitoria, un governo transitorio per poi, appunto, rimaneggiare nuovamente la compagine governativa. E quindi, come in molti giornalisti, molti colleghi e molti analisti avevano previsto, molto ragionevolmente si andrà nuovamente a votare in Turchia. Che cosa significa tutto ciò e quali conseguenze per Erdogan lo capiremo tra pochissimo. Prima di chiamare in causa Marta Ottaviani, buongiorno intanto Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Marta Ottaviani, giornalista, esperta di Turchia, la potete leggere sulla stampa, su Avvenire, fra gli altri. Andiamo però, Marta, stai con noi, andiamo subito a Istanbul, dove c'è Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno. Marco, mi senti? Sì, ti sento. Eccoci, oh, per fortuna. Allora, Marco Barbonaglia, anch'egli collega, collabora con Radio 24, è appena stato alla sede, alla sezione di Istanbul, dove ha incontrato la copresidente Ayşe Erdem. Correggimi se sbaglio, Marco. È giusto, Ayşe Erdem, ecco, della sezione Istanbul dell'HDP, la quale inizia a dire, adesso facciamo sentire l'intervista, che già dal scorso 7 giugno si attendevano queste elezioni anticipate. Ascoltiamo insieme. Depuis le 7 juin, on attendait un peu cette élection anticipée parce que E la rappresentante del partito dei curdi dice: noi ci attendevamo queste elezioni anticipate, non è una notizia che ci lascia stupiti, perché né AKP né Tayyip Erdogan avevano accettato i risultati del 7 giugno. In quei risultati il Partito Democratico del Popolo aveva preso il 13%, aveva ricevuto il voto e il sostegno da 6 milioni di persone, ricorda, e ciò ha voluto dire 80 deputati al Parlamento, e quindi Erdogan con questi numeri non può far passare le leggi. Il suo unico scopo era diventare presidente, e quindi ricorda che AKP, il partito di Erdogan, ha bisogno di 400 seggi al Parlamento. Sempre l'esponente del Partito Democratico del Popolo ricorda che da quando i curdi sono entrati in Parlamento l'aritmetica stessa del Parlamento è cambiata del tutto. E poi ci va giù pesante, perché dice: adesso lui vuole rubarci, lui intende Erdogan, le elezioni, e spera di poter avere più voti di quelli presi il 7 giugno. Per cambiare questo risultato attacca il PKK, e allo stesso tempo ricorda: ci sono fermi di polizia ogni mattina verso membri dell'HDP, del Partito Democratico del Popolo. In questo modo, sostiene la rappresentante Ayşe Erdem, sta cercando di criminalizzare il partito e cambiare proprio il punto di vista della popolazione. Questa è una prima valutazione di Ayşe Erdem. La seconda è molto interessante, ascoltiamone uno stralcio. Après moi, la société, les gens, le peuple de Turquie cette fois si vuole la realtà. Aish Erdem, al microfono di Marco Barbonaglia, fondamentalmente fa una riflessione sul ruolo dei social media e sulla società turca e fondamentalmente dice che grazie ai social, grazie alle grandi campagne sui social, è per questo che Erdogan ogni tanto evidentemente li butta giù, c'è molta più coscienza politica e lei sostiene che i social remino a favore del Partito Democratico del popolo. A questo punto, prima di tornare a Istanbul per un commento e poi di andare da Marta Ottaviani per un'ulteriore analisi, vi faccio sentire l'ultimissima domanda che ha fatto Marco Barbonaglia a Aish Erdem, che è co-presidente della sezione dell'HDP di Istanbul. Erdogan sostanzialmente da tempo colpisce l'HDP dicendo che è come il PKK, dice che Demirtas è una marionetta del PKK, questo mantra che ripete ogni giorno, quanto può essere impattante sull'elettorato turco? Sentite cosa dice. E Aish Erdem, co-presidente della sezione del Partito Democratico del Popolo di Istanbul, dice: beh, alcuni crederanno a questa campagna, questo è fuori di discussione, ma i turchi hanno compreso che il PKK è una cosa diversa dal partito, dall'HDP, che è un partito democratico che fa politica in Parlamento e nella società, mentre il PKK è un movimento curdo per la liberazione dei curdi, ma sono due cose diverse, precisa. E Demirtas stesso dice ogni giorno: vogliamo la pace, e chiede che il PKK fermi le operazioni. E insieme alla fine la rappresentante Aish Erdem, la co-presidente della sezione di Istanbul, dice: alla fine io credo che i democratici, i socialisti, ma soprattutto le donne faranno di tutto per far passare all'HDP la soglia di sbarramento, ancora una volta, che ricordiamo è una soglia del 10% che è stata passata a giugno e ovviamente ha fatto entrare questi 79 membri a sedere sul Parlamento. Marco Barbonaglia, un breve commento su quella che è l'atmosfera tra le componenti curde della società turca. Che aria tira? C'è più disillusione? C'è più speranza su questo ormai prossimo appuntamento elettorale? Io sono qui proprio in questo momento, stavo parlando poco fa con degli attivisti dell'EDP, dei ragazzi giovani. Sì, c'è la sensazione che il governo, in particolare Erdogan, stia cercando in qualche modo di portargli via il risultato, quindi di invalidare il risultato del voto appena avuto. D'altra parte Erdogan ha parlato, o comunque ha pensato, ha lasciato balenare l'idea di elezioni anticipate già dal giorno dopo, il 7 giugno, quindi questo sospetto è più che giustificato. Ma non c'è disillusione, devo dire che c'è ancora una forte speranza e un forte entusiasmo, nel senso che la risposta che mi sento dare più spesso, e quella che ha dato anche Aish Erdem, mi ha detto anche lei, è che comunque la gente, secondo loro, l'EDP non perderà voti, l'HDP, o ne perderà pochi, quindi secondo loro sostanzialmente la situazione non cambierà. Proprio adesso un giovane attivista mi diceva: anzi, spero che la Turchia gli voglia dare una lezione e che l'HDP, il Partito di Erdogan, prenda addirittura meno voti. Andando, forse questo non è molto realistico, nel senso che i sondaggi dicono che in realtà sta recuperando dei voti, però anche secondo i sondaggi, ecco, lui può recuperare dei voti, ma bisogna poi vedere cosa succederà al partito filocurdo, all'HDP, che se superasse ugualmente di nuovo la barriera del 10%, gli romperebbe un'altra volta le uova nel paniere, a quel punto lo lascerebbe anche sicuramente più disarmato di adesso. È molto difficile però prevedere cosa accadrà da qui a novembre, ovviamente, visto tutto ciò che sta capitando in questo momento. Certo. Grazie a Marco Barbonaglia, collaboratore di Radio 24 da Istanbul. Buona giornata, buon lavoro, Marco. Buona giornata. Allora, adesso vorrei montare il grandangolo e cercare di analizzare più ad ampio spettro quello che sta accadendo, e ci soccorre in questa analisi Marta Ottaviani, che ha vissuto per anni in Turchia e che ben conosce e continua a raccontare quel paese. Marta Ottaviani, è uno stallo politico oppure, come dire, si è già preso una direzione che è quella semi annunciata da Erdogan due mesi fa e preannunciata nuovamente da Davutoglu ieri? Ma allora, anzitutto lunedì ci sarà un incontro che viene un po' considerato come l'ultima veramente lieve speranza per formare un esecutivo, che sarà un incontro tra Ahmet Davutoğlu e Devlet Bahçeli, che è il segretario del MEP, il Partito Nazionalista, che potrebbe decidere di appoggiare un governo di minoranza dando praticamente in soldoni un appoggio esterno. Ci sono molti analisti che vedono questa probabilità veramente molto remota, però insomma, ma Bahçeli è anche uno che ci ha abituato a sorprese e colpi di scena, perciò ecco, lunedì tutti gli occhi saranno puntati su questo. Per quello che mi riguarda, io credo che Erdogan abbia deciso che sarebbe tornati al voto dalla sera del 7 giugno, su questo sono molto d'accordo con quello che diceva Isher Dem, e in tutto questo spicca ancora una volta l'incompetenza e l'insipienza totale del maggior partito d'opposizione, che è il GEP, che non si è reso conto che non facendo comunque un governo di coalizione con Erdogan ha praticamente regalato nelle mani di Erdogan un assist incredibile per tornare alle elezioni e cercare di conquistare la maggioranza assoluta, con la quale il premier non potrebbe cambiare la Costituzione ma potrebbe comunque governare il paese da solo. Vorrei anche ricordare che proprio di recente alcuni sondaggi sottolineano come l'HP avesse aumentato i suoi consensi di circa 2 punti percentuali, quindi portandosi intorno al 43-43.5%, sottraendoli proprio al MEP. Quindi insomma, visto cioè, il rischio che anche con 4 partiti in Parlamento, se dovesse sottrarre voti sia ai curdi sia ai nazionalisti, Erdogan riesca ad ottenere la soglia minima necessaria di seggi, che è 276, per poter fare il governo da solo, che per la Turchia vorrebbe dire la strada spianata verso una dittatura soft. Vorrei anche spendere qualche parola su quello che sta succedendo in questo momento nel paese. Erdogan ha messo a punto una campagna elettorale in chiave anticurda, e anche su questo punto sono d'accordo con Aysher Dem, però anche il PKK dall'altra parte non sembra aver compreso la situazione di grande difficoltà in cui sta mettendo il partito curdo. Sì. Proprio è di pochi minuti fa un comunicato del del KCHK, che è il braccio armato proprio del PKK, una delle componenti più militarizzate del PKK, che diceva in sintesi: stato di allerta in alcune importanti regioni del sud-est del paese, tutti i poliziotti saranno cacciati fuori dalle caserme di polizia. Insomma, la campagna elettorale non è ancora iniziata, ma già non promette molto bene per quanto riguarda la stabilità interna. Certo, e fra l'altro dicevi giustamente, questo mette in crisi tutte le aree politiche curde, ed è per questo che Aysher Dem diceva: attenzione, il PKK è una cosa, noi invece facciamo una battaglia politica, eccetera, perché l'abbiamo sentito anche nelle scorse settimane da altri ospiti che intervengono sulla Turchia, che molto spesso ci sono, come dire, zone di contiguità, no, fra curdi impegnati politicamente. Anche a livello familiare, molte famiglie curde, c'è qualcuno che ha in braccio il Kalashnikov e sta sulle montagne, e qualcun altro, il cugino di un fratello, di un amico, insomma, situazioni spesso anche molto complesse dal punto di vista personale e familiare, che creano quella zona di ambiguità sulla quale alcuni attori lavorano evidentemente, e sulla quale altri tentano di smarcarsi, come sentivamo a Aysher Dem. Marto Taviani, perdonami, ma alla fine un po' mi hai già risposto, però Erdogan gli sta pagando questa strategia alla fine, perché i sondaggi è vero che lo danno un filo più favorevole. Alla fine funziona, strategia del caos, strategia del terrore, pugno duro, e alla fine vince lui. Erdogan oltretutto userà un'altra arma che adesso sta passando un attimino in secondo piano con questa questione curda, che è molto molto importante, ma Erdogan potrà dire: avete visto, se non vinco io in Turchia non si governa, perché e questo io l'avevo già detto quando c'era stato il risultato del 7 giugno, per avere più democrazia, quindi un parlamento più bilanciato e un governo non monocolore, la Turchia paga comunque a livello di stabilità interna, perché dal 2002 i turchi ormai erano abituati a vedere Erdogan vincere le elezioni e a formare un governo in tempo praticamente record. Tra le altre cose è importante sottolineare che Erdogan ha dato il mandato a Davutoğlu per formare il governo oltre un mese dopo che si era votato, e tutto questo sembra favorire un calendario elettorale. Ricordiamoci che a fine ottobre ci sarà la festa del sacrificio, e quindi a conti fatti, se Erdogan avesse dato il mandato a Davutoğlu subito dopo la fine delle elezioni si sarebbe andati a votare in concomitanza con la festa del sacrificio, che è impensabile. In questo momento invece si potrebbe votare a novembre, che tra le altre cose, ricordiamolo, è un mese che porta particolarmente fortuna alla Chepè. E un'ultima cosa voglio sottolineare, il mio timore più grande in questo momento, soprattutto se penso a quelle migliaia di giovani che hanno veramente creduto in Demirtas, che è il leader dell'EDP, come leader nuovo, un leader che parla di pace, perché ricordiamo che anche il programma elettorale dell'EDP era sicuramente il più riformatore, il più filoeuropeo di quelli presentati dai partiti in Turchia, la protesta possa arrivare nelle strade. Pensiamo anche alla componente alevita della popolazione turca e curda che sta pagando in termini di repressione ormai da anni, è una situazione che veramente rischia di diventare esplosiva. Sì. Marta, stai con noi un istante, perché sapete che c'è John Kerry che è arrivato a Cuba, ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione, e la CNN sta trasmettendo in diretta un John Kerry che si sta indirizzando ai cubani in spagnolo. Sentite qui. Realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas. Insomma, questo è un momento storico, perché la bandiera americana torna a sventolare su Cuba, ma di questo ci occuperemo, cari ascoltatori. Vi regalerò una fotografia, grazie appunto a una fotografa che è appena tornata da Cuba, che cerca di spiegare il cambiamento che è in corso, al di là della visita di Kerry adesso, che lo va in qualche modo a suggellare. Marta Ottaviani, regalaci altri due minuti per un'ultima domanda. Hai ben analizzato con grande lucidità, come dire, tutti i vantaggi e quanto Erdogan stia riuscendo a lucrare politicamente dalla situazione. Ma allora dici che il Partito del Popolo potrebbe nemmeno superare la soglia del 10%, quindi sparire politicamente dalla scena? No, questo non credo. Anche il sondaggio più pessimista dava comunque l'EDP intorno al 10,5%, quindi sopra la soglia che consente ai partiti di entrare in Parlamento. Però sarebbe un dato politico molto molto grave, anche perché ricordiamo che alle ultime elezioni l'EDP è stato votato anche da tanti tanti turchi, non solo da curdi, sì. E questo fa pensare due cose. Uno, che c'è una parte di popolo turco che ha bisogno di un'alternativa a Recep Tayyip Erdogan, e due, c'è una parte di popolo turco che vuole un'alternativa a Erdogan ma non la trova nei partiti dell'opposizione storica, soprattutto nel CHP, che ha veramente, scusate l'espressione forte, ma 130 deputati assolutamente inutili in questo momento, soprattutto dopo come si è comportato nell'ultimo mese e mezzo. Sì, sì, grazie Marta Ottaviani anche per questa parte un po' più sanguigna di analisi. Giornalista, esperta di Turchia, la leggete fra altre cose sulla Stampa. Buona giornata Marta e buon lavoro. A voi buona giornata e buon lavoro. Allora, questo è il tratteggio del possibile appuntamento elettorale che si dovrà tenere appunto a novembre in Turchia, dopo che i tentativi di formare un governo sono naufragati, evidentemente, da come avete sentito, anche un po' con dolo, perché evidentemente Erdogan sta cercando di sfruttare la situazione politico, sociale, militare del paese. C'è un aspetto militare invece che voglio riporre sotto la vostra attenzione, perché vi abbiamo raccontato del doppio fronte di Erdogan, no? Quello contro l'ISIS e quello contro il PKK. Due giorni fa, per ciò che riguarda il fronte contro lo Stato islamico, è stata dato il via libera, segnale verde agli aerei, scusate, americani, per partire da lì e andare a bombardare postazioni ISIS. Abbiamo raggiunto Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, che ci racconta il senso di questa nuova base logistica in territorio turco per gli Stati Uniti. Beh, intanto diciamo che l'utilizzo della base di circa poche decine di chilometri dal confine siriano abbrevia i tempi e anche i costi di intervento delle forze aeree della coalizione, in particolare le forze statunitensi, che solitamente decollano dalla Giordania o da basi addirittura nei paesi del Golfo, quindi molto più lontane. E, al di là di questo, l'intervento aereo americano da Incil contro l'ISIS coincide con l'avvio della campagna aerea turca, che ufficialmente ha preso di mira lo Stato islamico, ma sostanzialmente sta colpendo soprattutto i curdi. coincide con le voci ormai consolidate di una prossima istituzione di una zona cuscinetto nel nord della Siria, per l'estensione di circa 100 km di profondità, nella quale i turchi pretendono che non siano presenti le milizie curde, che sono quelle che finora hanno colpito con maggiori successi le forze dello Stato Islamico. E allora in questo caso le incursioni americane contro l'ISIS servono a impedire che lo Stato Islamico consolidi le sue posizioni all'interno di questa fascia di sicurezza che verrà istituita al confine, in territorio siriano, ma al confine con la Turchia, e quindi favorendo in questo modo l'attivazione prossima di questa fascia di sicurezza che dovrà essere garantita proprio dalle forze turche. Io vi ricordo le coordinate per interagire con noi e per commentare i temi o porre domande per i miei ospiti o suggerire anche temi come avete fatto in passato in queste settimane e che normalmente insomma cerco di accontentare. 349-238-6666 per gli sms, i social sono Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, e poi i due account Twitter, uno è Giampaz e l'altro è Nessun Luogo 24. Allora, mentre l'occhio è sempre lì puntato sull'Havana, dove John Kerry sta continuando a parlare sempre in spagnolo e dove molto presto la bandiera americana sventolerà sul tetto dell'ambasciata statunitense appunto a Cuba, andando a suggellare un evento storico, un riavvicinamento ormai che dura da qualche anno ma che negli ultimi mesi, come dire, ha subito una virtuosa accelerazione, e quanto poi questo stia impattando sull'isola di Cuba ve lo racconterò nell'ultima parte della trasmissione. Però come avete sentito dall'anticipazione, come vi annunciavano anche i colleghi del GR, abbiamo deciso di riaccendere i riflettori sulla Libia e in particolare sui feroci scontri che sono in corso a Sirte, perché in oltre 3 giorni di combattimenti vi sono state almeno 106 vittime. Recentemente le ultime ore ha attaccato persino un ospedale. Allora abbiamo raggiunto Nancy Porcia, che è una giornalista freelance molto esperta in Libia, che conosce molto bene il paese e che lavora lì parecchi mesi durante l'anno, e che ci racconta qual è la situazione sul campo a Sirte. La situazione sul campo è abbastanza ingarbugliata e complessa. Sirte è stata presa dallo Stato Islamico, che risponde al Baghdadi, al califfo al Baghdadi, lo scorso febbraio. Da allora la città di Misrata, che è una delle città-stato libiche, è distante circa 250 km dalla stessa Sirte, sta provando a cacciare i combattenti dello Stato Islamico, ma evidentemente senza grandi risultati. Dallo scorso giugno in realtà lo Stato Islamico ha preso pieno controllo della città, facendo indietreggiare le forze della città di Misrata. Oggi che cosa sta succedendo? Evidentemente, data la campagna di bombardamento aereo che le forze di sicurezza di Misrata stavano portando avanti da circa una settimana, lo Stato Islamico ha deciso di rispondere al fuoco. Quindi non è stato un attacco di prima mano da parte delle forze dello Stato Islamico, ma è stata una reazione da parte delle forze dello Stato Islamico a questa campagna di bombardamento aereo da parte delle forze della città di Misrata. E la voce che avete sentito era quella di Nancy Porcia, giornalista freelance che molto spesso lavora in Libia, che conosce il paese e che ci descriveva la situazione di Sirte. Allora a quel punto la domanda successiva è stata se Misurata possa cadere prima o poi, sentite. La città di Misrata è la città che vanta il più alto numero di uomini armati, parliamo di circa 80.000 uomini armati, che comunque in questo momento, essendo Misrata una città chiave, sono anche, diciamo, redistribuiti sul territorio nazionale, sono nell'ovest del paese, quasi al confine con la Tunisia, sono a Tripoli, sono anche nel sud, nel Fezzan, è chiaramente ad oggi, o meglio fino a febbraio, la città di Misurata ha evitato lo scontro aperto proprio per non ritrovarsi gli attacchi kamikaze, che poi vanno a definire la guerra simmetrica. Bene, oramai Misurata è in ballo, è in pista, motivo per cui ha deciso da circa una settimana di andare avanti con questa campagna di bombardamento aereo. Già dallo scorso febbraio Misurata è vittima di numerosi attacchi kamikaze. La città al suo interno è ancora abbastanza sicura, i punti deboli della città di Misurata restano i checkpoint al confine, quindi la città di Misurata in realtà è già sotto attacco. Che il Misurata possa fallire è una possibilità. E questo è l'aggiornamento sulla situazione di Sirte, ma anche di Misurata, grazie a Nancy Porcia, giornalista freelance esperta di Libia. Noi adesso andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi cambieremo pagina, ma di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. Allora, 349-238-6666 per i vostri messaggi, Giampaz e Nessun Luogo 24 su Twitter, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Abbiamo parlato di Turchia a lungo con questa l'ipotesi ormai sempre più vicina delle elezioni anticipate, che fondamentalmente sono un grande regalo che si sta facendo Erdogan secondo le analisi dei nostri ospiti. E poi abbiamo parlato di Sirte, di Libia, perché lì si sta combattendo una feroce battaglia da almeno tre giorni. Poi nell'ultima parte della trasmissione andremo a Cuba, perché in questo momento John Kerry sta parlando, segretario di Stato statunitense, si è pronti per la cerimonia che isserà la bandiera a stelle strisce sull'ambasciata statunitense. Kerry, fra le altre cose, ha detto: i nostri leader hanno preso una decisione coraggiosa nel decidere di non essere più prigionieri della storia. Poi ha anche detto: l'istituzione di normali rapporti diplomatici non è un favore fatto da un paese all'altro. Insomma, il tono è quello della normalizzazione, il tono è quello del riappacificamento, riavvicinamento. Insomma, vedremo la storia se quanto darà ragione a queste virtuose, certamente scelte virtuose, immagino, per il popolo cubano, che finalmente vede un'apertura che per decenni gli è stata negata. Quanto poi l'anima di Cuba rimarrà tale, ma questo lo scopriremo nell'ultima parte della trasmissione. Adesso c'è da tornare in Africa e da parlare di un mistero. Chad's president Idris Deby says Boko Haram's days are numbered. He says the war against the militants will soon be over following the introduction of the new 5-country force, which will be operational. E così un servizio di France 24 annunciava l'annuncio del presidente ciadiano Idris Deby, che diceva: attenzione, perché alla guida del gruppo islamista Boko Haram, gruppo che controlla un bel pezzo nel nord-est della Nigeria, responsabile di svariati attacchi e attentati anche ad Abuja, capitale della Nigeria, negli anni passati, attenzione, non è più lui il capo, non è più Abubakar Shekau a guidare Boko Haram. Shekau non appariva sui video di propaganda di Boko Haram da parecchi mesi, adesso, ha detto Idris Deby, presidente ciadiano, è tale Mahmat Daoud. E lo stesso Idris Deby ha detto che fra poco Boko Haram verrà sconfitto, facendo eco al presidente nigeriano neoeletto Muhammadu Buhari, il quale aveva detto ai suoi generali, al nuovo stato maggiore: attenzione, perché entro 3 mesi la questione Boko Haram va risolta. Post propaganda elettorale, evidentemente, nel caso del neoeletto presidente nigeriano, invece chiara propaganda elettorale nel caso di Idris Deby, perché potrebbe ricandidarsi nel 2016, benché sia al potere dopo il colpo di stato, pensate, dal 1990. Allora, per capire quanto queste parole siano fondate, quanto le dichiarazioni di Idriss Déby dal Chad siano fondate, abbiamo raggiunto Colin Philip Clark, che è un ricercatore alla RAND Corporation, che è esperto di movimenti terroristici. A lui abbiamo chiesto se abbia qualche conferma nel cambio di vertici di Boko Haram. È stato annunciato solo recentemente. Esistono diversi gruppi armati, ma ancora non sappiamo molto su Boko Haram. In ogni caso, il presidente del Chad, Idriss Déby, ha affermato che Abubakar Shekau è fuori dai giochi. Shekau è stato precedentemente leader di Boko Haram dal 2009, prendendo il controllo del gruppo dopo la morte del fondatore Muhammad Yusuf, morto mentre era in custodia alla polizia. C'è un nuovo leader annunciato dal presidente del Chad ed è Mahmoud Daoud. E questo è un po' il primo tassello nel grande giallo firmato Boko Haram, questo gruppo che da anni ingaggia contro le forze governative di Abuja, che si ha dichiarato la sua affiliazione allo Stato Islamico, dal cosiddetto Stato Islamico, e che tanti grattacapi crea anche paesi vicini come Niger, come Camerun, come Chad. E proprio di questi paesi, assieme a un contingente del Benin, si è formata una coalizione internazionale che sta tentando di lottare. Nel frattempo andiamo al volissimo a Cuba, perché la bandiera americana è lì che sta per essere issata, anzi è stata issata in questo esatto istante. E da un nuovo grande amico degli Stati Uniti a un amico di più vecchia data, che è la Nigeria, perché molto spesso gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno aiutato il governo di Abuja sulla formazione militare, e anche hanno considerato Boko Haram uno dei grandi nemici degli Stati Uniti in Africa. Chi è il nuovo leader di Boko Haram? Chi è che ha preso il posto di Shekau? Sentite cosa dice Colin Philip Clark della RAND Corporation. Si sa molto poco su Daoud. La maggior parte delle informazioni si conoscono proprio dal presidente del Chad, Déby. La parte più importante del suo annuncio è che si pensa che Daoud sia aperto al dialogo, a negoziare una soluzione politica o finire l'insurrezione. Molti sono scettici, specie perché Shekau è già stato proclamato morto molte volte, ma questi annunci si sono poi rivelati falsi. Non è insolito, si è visto altre volte con Al-Qaeda e i gruppi di Islamabad, con Mokhtar Belmokhtar. Anche negli ultimi anni ci sono stati numerosi annunci della morte del leader dei Taliban, il Mullah Omar, e solo recentemente abbiamo avuto la conferma che sia morto nel 2013. Non è una situazione eccezionale, ciò che dobbiamo fare è aspettare. È solo una questione di tempo. Vedremo se sarà confermato che Shekau è fuori dai giochi e che effettivamente Daoud l'ha rimpiazzato. E probabilmente Boko Haram è uno dei gruppi terroristici, una delle milizie più impenetrabili alle azioni di intelligence, un po' per il territorio in cui opera, un po' perché molti analisti hanno letto delle serie connivenze tra i governatori del nord, tra gruppi politici del nord della Nigeria e appunto la formazione Boko Haram, il cui scopo, questa sottesa e oscura alleanza, avrebbe di battere cassa fondamentalmente anche a livello politico su Abuja. Allora, siccome come vi dicevo, la fonte di questo possibile cambio al vertice di Boko Haram viene da Idriss Déby, che è presidente al Chad, ma che fondamentalmente è già in campagna elettorale, perché nel 2016 potrebbe essere riconfermato, allora abbiamo chiesto a Colin Philip Clark se questa nostra lettura un po' maliziosa è corretta o meno. Sentite. Sì, penso sia giusto essere scettici. Boko Haram è un gruppo che fino ad ora ha ucciso 10.000 africani e non è circoscritto solo al Chad, ma è anche in Camerun e in Niger. Sono d'accordo, potrebbe essere funzionale all'agenda del presidente del Chad. Giusto essere scettici. Un'altra cosa che è importante notare è quanto sia ancora poco chiaro quanto sia coerente Boko Haram. In altre parole, se c'è una struttura di comando unita e controllata, oppure se è una rete di terroristi disperati ma spinti da un'ideologia. La mia opinione è che sia più simile alla seconda. Quindi anche se abbiamo notizia di un cambio al vertice, dobbiamo capire cosa avviene al resto dell'organizzazione nei vari territori, non solo in Nigeria, ma in tutta la regione. Stiamo tratteggiando Boko Haram, il gruppo che ha messo in scacco per anni Abuja nel tutto il nord-est e il nord del paese, che ha compiuto rapimenti, estorsioni, rapine e che ha sconfinato in paesi vicini estendendo la sua attività militare e terroristica. Se è vero che non è la loro una struttura gerarchica come ci stava raccontando Colin Philip Clark della Rand Corporation, allora qual è il loro scopo? Semplicemente ritagliarsi uno spazio necessario per le attività criminali o costruire un califfato islamico lì nel cuore dell'Africa? Questa è una domanda interessante. Se consideriamo che possa essere un gruppo poco organizzato gerarchicamente, ma più che altro un gruppo con una struttura orizzontale, allora è possibile che non ci sia una strategia complessiva, che non ci sia un singolo obiettivo. Quello che vediamo è che in alcune parti della Nigeria ci sono gruppi più ideologici e vicini allo Stato islamico, che vorrebbero costruire una sorta di mini-stato con una parte dei nigeriani, specialmente del nord, mentre altre parti di questo network cercano la violenza fine a se stessa o compiono azioni criminali occultate come azioni politiche. Allora, uno dei cavalli di battaglia di Colin Philip Clark, che è questo analista della Rand Corporation, che è un istituto molto quotato che fa analisi anche sul terrorismo, è proprio le linee di finanziamento di gruppi terroristici o di movimenti di guerriglieri. Come finanziano le armi, il carburante per i loro mezzi, i loro miliziani stessi? Boko Haram, sentite cosa dice Philip Clark. Ho recentemente scritto un libro sugli strumenti con cui questi gruppi si finanziano, quindi mi sono occupato da vicino di questo argomento. Quello che posso dire è che Boko Haram si finanzia per lo più internamente e che spende i suoi soldi soprattutto al suo interno. Io penso che altri gruppi si appoggino esternamente ad altri stati o ad altre figure esterne che li finanziano. Boko Haram prende controllo dei territori, li saccheggia e li deruba di tutto ciò di cui ha bisogno: armi, veicoli, ma anche cibo e riparo. Allora, non so se vi ricordate, ma nella puntata tutta dedicata al bracconaggio, al valore dell'avorio, gli elefanti, i rinoceronti, avevamo tratteggiato come appunto il bracconaggio potesse essere una delle fonti di approvvigionamento, e i responsabili del WWF avevano paventato la possibilità che anche Boko Haram si approvvigionasse grazie al bracconaggio. Allora, la domanda chiaramente per Colin Philip Clark è stata proprio questa: è il bracconaggio una fonte, una linea di finanziamento per Boko Haram? Sentite. Sì, è certamente possibile. Non ho incontrato prove dirette a riprova di questa tesi, ma so che è un tema complesso su cui dei ricercatori stanno lentamente raccogliendo dei dati. Non ho delle prove, ma con gruppi come questi qualsiasi cosa è possibile. E di qui a 6 mesi o un anno potremmo leggere un report che approfondisce i legami tra questi gruppi ed il bracconaggio, e di qui a 6 mesi o un anno potremmo leggere un report che approfondisce i legami tra questi gruppi e il bracconaggio nei confronti delle specie a rischio. E poi l'ultima notazione, perché fra le varie dichiarazioni di Idriss Déby, presidente ciadiano, quando ha detto attenzione, non è più Shekau ma è Daoud, il nuovo leader di Boko Haram, ha detto attenzione perché Daoud è uno pronto a negoziare. Allora abbiamo chiesto a Colin Philip Clark che cosa ne pensa della possibilità di un dialogo. È possibile secondo lui dialogare? È possibile che Abuja, la capitale nigeriana, il governo nigeriano si sieda al tavolo a trattare con Daoud? Sentite. I negoziati avrebbero come scopo quello di fermare le violenze, ma queste cose spesso richiedono anni, se non addirittura di più in alcuni casi. Non sono ancora sicuro di quanto sia motivato il governo per approcciare questo problema dal punto di vista politico e quanto un nuovo governo possa farlo. Thank you. E questa era l'ultima risposta di Colin Philip Clark, che è ricercatore esperto di movimenti terroristici alla RAND Corporation. Così si chiude questa pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata alla minaccia Boko Haram e al suo possibile cambio al vertice. Fra poco vi porterò a Cuba, a La Habana, ma prima le informazioni sul traffico. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, ultima pagina dell'ultima puntata di questa settimana del programma che getta lo sguardo al di fuori dei confini nazionali. Lo abbiamo fatto volando tra Turchia e poi Libia, e poi concentrandoci sul nord della Nigeria, su Boko Haram, su questa minaccia, e poi finendo a La Habana, a Cuba, dove da pochissimi minuti è stata issata la bandiera stelle strisce sulla sede consolare degli Stati Uniti, dove John Kerry ha appena finito di parlare ai cubani, ha parlato in spagnolo, ha detto: con Cuba siamo vicini e i vicini hanno sempre qualcosa di cui parlare, e ha aggiunto poi: promesse fatte, promesse mantenute, suggellando in qualche modo un lungo processo di riavvicinamento che in verità negli ultimi mesi, negli ultimi anni aveva subito delle accelerazioni importanti. E fra l'altro, se andate su Twitter e andate a spulciare gli hashtag, sono Cuba, Havana, Kerry, eccetera, andrete a vedere quanti cubani stanno indossando vestiti a stelle e strisce proprio per omaggiare questa nuova apertura. In qualche modo la bandiera americana è non solo è il suggello di questo riavvicinamento politico, ma sta diventando una nuova icona, come ci conferma con un simpatico aneddoto Cristina Mastandrea, fotografa freelance che è appena tornata da Cuba. Cristina, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, Cristina Mastandrea è fotogiornalista freelance, collabora con svariate testate. Potrete vedere le sue foto su cristinamastandrea.photoshelter.com. Noi poi sul social, sulla pagina di Nessun Luogo Lontano, ripostiamo il sito in modo da poter dare un'occhiata appunto ai tuoi lavori. Fresca di rientro da Cuba. Allora, sì. questa bandiera americana in realtà ti ha accolto immediatamente, è vero Cristina? Appena sì, sei arrivata. Infatti è un po' un aneddoto, nel senso che sono arrivata all'aeroporto, il primo taxi per recarmi a La Habana era un taxi appunto che aveva appeso la bandierina americana, per cui insomma ero un po' stupita di questo. Infatti ho detto al taxista: beh, almeno mettiamole tutte e due, visto che siamo sempre a Cuba. Sì. Comunque. Insomma, però dava il segnale, dava il termometro di una, sì, di una Havana, quantomeno, se non di un'intera Cuba che aspettava questo momento, insomma, con grande trepidazione. Poi lo dicevo a inizio trasmissione, vedremo, no, quali effetti economici, sociali dispiegherà, però di sicuro per molti cubani è una grandissima novità, una grandissima apertura. Tu Cristina, allora, i fotografi, perché io invito tanti fotografi in trasmissione? Perché i fotografi passano tanto tempo nei posti. È una cosa che si fa sempre meno, perché ormai c'è sempre meno tempo, ci sono sempre meno soldi per fare questo lavoro, ma il fotografo sta lì perché deve aspettare le situazioni, deve parlare con le persone, deve entrare nelle storie, e poi l'ultima cosa è fare click, no? Esatto. Tu hai passato solo, tra virgolette, 2 settimane, no Cristina? Qual è il sentimento, esatto, il sentimento dominante, guarda, che hai trovato? Ma oh sì, esatto, infatti ho passato 2 settimane, quindi chiaramente un lavoro proprio di approfondimento su tante tematiche non era possibile farlo. Però come dici tu, ho passato tanto tempo nei posti, e alcuni posti dove ho passato più tempo è stato più che altro per curiosità, sono stati questi luoghi che dal 1 luglio praticamente il governo cubano e la società telefonica Texa ha aperto il wifi gratuito. Quindi prima diciamo che i cubani potevano avere accesso a internet, ma solo chi ne aveva possibilità, quindi pochissima gente. Mentre aprendo questi 2 luoghi, che sono in realtà la rampa dal Vedado che finisce al Malecón e il Parque Fidel Valle, che è nella zona di Centro Havana, in realtà tutti i cubani che con un telefonino, computer, tablet, praticamente passavano intere nottate nel parco a collegarsi a internet. Sì. Chiaramente la connessione non è gratuita, c'è un costo di connessione, però questo prima non era possibile. Era possibile in alcuni luoghi ad un prezzo superiore, tipo 4 cuc e 50, che sono più o meno 4 euro. Sì. E quindi questa è stata per loro una novità assoluta, quindi proprio passavano giornate intere. No, io sono andata veramente alle 3 di notte al parco ed era pieno di gente, non c'era neanche la possibilità di potersi sedere sulle panchine, c'era gente seduta per terra, addirittura con le sedie portate da casa. Sì. Alcuni con la bottiglietta di rum, insomma, questa è un po' la novità, quello che ho potuto vedere. Sì. E quindi mi incuriosiva molto. Sì, insomma, un'apertura che non è solo politica, ovviamente, ma ha i suoi effetti anche sulle nuove tecnologie, quindi un internet, sì, più accessibile, e quindi di conseguenza un'apertura al mondo. Ma allora, Cristina, poi che, sì, cosa facevano col tablet e lo smartphone in mano? Che cosa guardavano? Esatto. No, niente, loro sostanzialmente principalmente comunicano, quindi alcuni dicevano: ah, questa è una rivoluzione perché finalmente possiamo parlare con i nostri parenti, possiamo aprirci al mondo, comunichiamo con i parenti a Miami oppure in Europa, anche per quello che passavano le notti, perché chiaramente col fuso orario riuscivano a parlare con qualcuno dall'altra parte del mondo. E diciamo che principalmente usano i social network, quindi Facebook, oppure le applicazioni che gli permettono di fare videochiamate come Imo, Skype e WhatsApp. Quindi questo, diciamo, che è l'utilizzo principale. Sì. Mi dicevano che non vanno tantissimo su siti di informazione, o almeno lì nel parco, questo, ho fatto un po' di sondaggi, chiaramente non, loro interessava molto di più comunicare perché era la cosa più immediata. La connessione è ancora un po' lenta, quindi scaricare, sì, non so, video, musica è troppo lento e costa 2 cuc all'ora, per cui chiaramente cercano di sfruttare al massimo questo tempo per fare le cose che loro ritengono principali, quindi, certo, in questo caso comunicare. Anche perché sono comunque cifre importanti, no, per un stipendio medio di un sì, cubano. Infatti, perché comunque lo stipendio è sempre $20-30 al mese, quindi chiaramente 2 cuc sono parecchio, sì, per loro. Poi l'altra cosa che ho notato, sì, che è una cosa molto particolare, che in realtà, sentite il temporale, ma la diretta. E, no, l'altra cosa che ho notato è che nel parco praticamente alcuni giovani compravano le carte, le targhette da 2 cuc alla compagnia telefonica e poi le rivendevano al parco. Infatti, io sono andata alla compagnia telefonica, è impossibile comprare queste carte internet. Quindi praticamente hanno subito trovato un modo. C'è stato uno smercio di carte telefoniche. Esatto, anziché al parco la prima cosa che chiedono: vuoi una targhetta? Sì, sì, insomma, vabbè, sì, questo dà insomma la dimensione, no, di questo cambiamento che è in corso. Cristina, tu lavori con le immagini, sì, e l'iconografia di Cuba negli ultimi anni si è consolidata in un certo modo, no? Quei colori, sì, pastello, quelle strade, quelle vecchie auto anni 50, anni 60, quell'atmosfera. Sì. Atmosfera sospesa e rarefatta. E tu ci tornerai perché stai facendo lavori di lungo progetto. Sì. Quanto quell'immagine, certo, lì secondo te rimarrà e quanto sta cambiando invece? No, allora, sicuramente Cuba oggi è ancora quella che ci siamo immaginati o comunque quello che abbiamo visto fino adesso. Non credo che cambierà nel breve periodo e credo anche che i cubani cercheranno in tutti i modi di mantenere la loro essenza, la loro cultura. C'è un grandissimo orgoglio nazionale e anche della rivoluzione, loro sono molto orgogliosi di tutto quello che è stata la loro storia, quindi anche le persone che sono più propense chiaramente al cambiamento, perché loro vogliono delle nuove possibilità, vogliono un'apertura anche del mercato per avere più possibilità, più lavoro, però comunque non rinnegano nulla e vogliono comunque rimanere la Cuba che è sempre stata, nel senso, se vogliamo intenderla come immagini, vabbè, qualcosa cambierà, però le macchine d'epoca, quelle sono un po' la loro storia, sì, credo che non quelle rimarranno, insomma, se questo è un po' quello che noi desideriamo, ma in realtà noi desideriamo anche una Cuba che per certi versi cambi, loro vogliono, le persone che, con le quali ho parlato mi hanno detto: non vogliamo diventare un paese capitalista, vogliamo continuare a essere un paese socialista e mantenere le nostre, i nostri principi. Certo, certo. Chiaramente vogliono un'apertura del mercato e una normalizzazione delle relazioni con gli altri paesi, e soprattutto c'è sempre il tema dell'embargo. Certo, certo, che ad oggi non è stato ancora insomma, non è stato ancora dichiarato la fine dell'embargo. Eh no, perché lì ci servirà, ci vorrà il voto del congresso poi, perché diciamo, un conto è il proclama di Obama, un conto poi il lavoro del congresso. Io ringrazio Cristina Mastandrea, fotografa freelance di ritorno da Cuba, per questa fotografia che ci ha donato. Lei ci tornerà, noi speriamo di ospitarla ancora. Cristina Mastandrea, photoshelter.com, se volete vedere i suoi scatti. Siamo quasi in chiusura, sì, allora via, titoli di coda. Con i quali ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, che hanno confezionato con me questa puntata, Valeria Bernardi, che le ha dato la musica e il ritmo giusto, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è con la replica, il meglio di domattina alle 9, poi di nuovo lunedì alle ore 16. Nessun luogo sarà lontano. Intanto un buon weekend e un saluto da Giampaolo Musumeci.